Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Mi trovo costretto per l'ennesima volta a levarmi in difesa del proponimento dell'elezione di Dio, ossia della predestinazione, come comunemente viene soprannominato il proponimento delle elezioni di Dio. Perché? Perché vedo che c'è il solito odio, lo chiamo il solito odio perché ormai sono abituato da tanti anni a constatare, questo odio. Dico il solito odio verso la predestinazione, ossia il proponimento delle elezioni di Dio. Un odio dettato dall'ignoranza, dall'orgoglio, dalla presunzione, di cui sono pieni molti soggetti in ambito evangelico. Voi sapete che in ambito evangelico il proponimento dell'elezione di Dio è rigettato in particolar modo all'interno delle denominazioni pentecostali. Perché? Perché il movimento pentecostale sin dalle sue origini, attenzione, sto parlando di quello però non italiano, perché qui bisogna fare una precisazione. Allora, il movimento pentecostale sorto negli Stati Uniti all'inizio dello scorso secolo era un movimento di risveglio di matrice wesleyana. Cosa significa? Che praticamente sorse in un ambito di metodisti wesleyani, o comunque sia di credenti che aderivano ai principi dottrinali del predicatore inglese John Wesley, a proposito del quale vi ricordo che era massone, anche se alcuni lo negano, però era massone, pure lui, come Spurgeon e tanti altri, come anche il fondatore dell'Esercito della Salvezza, William Booth, insomma, una schiera di massoni. Allora, il movimento pentecostale che sorse in America sorse in un ambiente, metodista wesleyano. E Wesley era un nemico acerrimo della predestinazione. La detestava, la odiava, la scherniva, parlava con parole durissime contro la predestinazione. Allora, questo odio verso la predestinazione chiaramente è stato adottato anche dai pentecostali. È stato adottato anche dai pentecostali americani, dai pentecostali americani. E quindi da Charles Farham, William Seymour, insomma. Questi predicatori detestavano profondamente il proponimento dell'elezione di Dio. E le assemblee di Dio americane che poi sorsero nel 1914 e che naturalmente diventarono poi la maggiore denominazione pentecostale, che poi ha dato vita a poi anche alle assemblee di Dio nelle altre nazioni, ebbene le assemblee di Dio americane rigettarono sin dall'inizio la predestinazione. Ora, questo rigetto della predestinazione tramite le assemblee di Dio americane si è proprio diffuso a macchia d'olio, non solo all'interno delle assemblee di Dio brasiliane, delle altre nazioni, compresa l'Italia, ma anche all'interno di denominazioni pentecostali che non fanno parte della della famiglia delle assemblee di Dio. Perché? Perché le assemblee di Dio comunque sono sempre state viste come un punto di riferimento importante all'interno del movimento pentecostale istituzionalizzato. Da qui quindi anche in Italia cosa è successo? Le assemblee di Dio italiane che sono sorte nel dopoguerra, avendo poi accettato la posizione wesleyana, diciamo che praticamente hanno diffuso questo odio verso la predestinazione anche all'esterno delle assemblee di Dio. Perché poi che cosa è successo? È successo che le assemblee di Dio in Italia venivano viste come un punto di riferimento importante anche dalle chiese, dal punto di vista dottrinale, dalle chiese pentecostali libere, cosiddette libere, e allora chiaramente quello che dicevano le assemblee di Dio in Italia veniva preso per oro colato, diciamo così. Io mi ricordo negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, io mi ricordo che quello che, diciamo, Toppi, ex allora presidente delle ADI, o altri, diciamo, esponenti delle ADI scrivevano sulla rivista Cristiani Oggi, rivista ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia, veniva considerato molto anche all'esterno delle ADI, e tramite appunto questa rivista è stato diffuso appunto il rigetto, anche tramite, diciamo, questa rivista, il rigetto della predestinazione o del proponimento dell'elezione di Dio. Però che cosa è avvenuto? Che Dio, naturalmente, nella sua sovranità, ha fatto sì che praticamente questa dottrina biblica, diciamo, negli ultimi decenni entrasse appunto con forza nelle denominazioni pentecostali. E infatti molti credenti, diciamo, negli ultimi decenni hanno accettato il proponimento dell'elezione di Dio, ossia la predestinazione all'interno quindi del movimento pentecostale. Ora, questa cosa naturalmente non poteva che suscitare l'indignazione di coloro che appunto hanno sempre rigettato la predestinazione. E quindi adesso che si sta diffondendo ancora, e ringraziamo il Signore veramente per questo, perché io ricordo quando noi lanciammo il sito internet alla fine del 1999, noi appunto cominciammo a diffondere il proponimento dell'elezione di Dio, e grazie al Signore che tramite appunto la nostra opera sul web, la dottrina della predestinazione è penetrata all'interno, diciamo, di tante chiese pentecostali ed è stata accettata da tanti credenti pentecostali. Quindi a noi non può che farci piacere. Questo oramai sono, diciamo, dei decenni, diciamo, che va avanti questa cosa, cioè praticamente la dottrina della predestinazione è sempre più accettata all'interno, diciamo, delle chiese pentecostali. E guardate, noi siamo grati a Dio, perché solo il Dio può fare questo, cioè solo il Dio può aprire la mente ai credenti per fargli intendere le scritture. E quindi solo il Signore può fare veramente rigettare una falsa dottrina come quella appunto che dice che il destino se lo crea l'uomo. Ora, chiaramente, quando la verità corre, succede che quelli che sostengono la menzogna cercano naturalmente di fermarla, o comunque cercano anche di distruggerla. E questo è quello che sta succedendo. Allora, siccome che io osservo molto quello che avviene in ambito pentecostale, allora, siccome che sto notando questi movimenti feroci naturalmente dei soliti noti, quindi dei massoni, perché i massoni sono acerrimi nemici della predestinazione. Allora, siccome che sto notando questa, diciamo, ferocia, condita da stoltezza, ignoranza, presunzione, contro propriamente l'elezione di Dio, ho deciso di fare l'ennesima predicazione contro questi, diciamo, contro le ciance di questi, diciamo, stolti, che negano appunto il proponimento dell'elezione di Dio. Allora, ci sono delle parole di Gesù nel capitolo 15 che mettono a tacere, ossia chiudono la bocca a coloro che sostengono che il destino se lo crea l'uomo. Ossia, queste parole turano la bocca a coloro che, nella loro ignoranza, stoltezza e presunzione, dicono che è l'uomo che sceglie il Signore. Perché quelli che combattono contro il proponimento dell'elezione di Dio ci tengono del continuo a dire che è l'uomo che sceglie il Signore. Allora, nel capitolo 15 di Giovanni ci sono appunto delle parole di Gesù, pronunziate da Gesù nella notte in cui egli fu tradito, che proprio turano la bocca a costoro, e io voglio predicare su queste parole. Ho predicato altre volte, ma non mi stancherò mai di predicare su queste parole, perché queste parole sono molto importanti. Molto importanti. Capitolo 15, versetto 16, ascoltate. Non siete voi che avete scelto me, di Giovanni, Giovanni capitolo 15, dal versetto 16. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E v'ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ora, le parole che turano la bocca a quelli che sostengono che il destino se lo crea l'uomo sono queste: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Ora, qua c'è una scelta. Gesù sta parlando di una scelta. Allora, la scelta chi l'ha operata? Chi l'ha operata? Sta parlando qua ai suoi discepoli. Questa scelta chi l'ha operata? L'hanno operata i suoi discepoli o l'ha operata lui, il figlio di Dio? L'ha operata lui. Infatti cosa dice? Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Allora, le parole di Gesù sono parole fedeli e veraci, perché lui è il fedele, è il verace. Quindi, se ha detto queste parole che riguardano anche noi, dico questo perché il capitolo 15 di Giovanni è un capitolo che viene sempre citato, per insegnare sull'amore fraterno che ci deve essere tra di noi. E infatti è nel capitolo 15 di Giovanni che è scritto: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi, no? Nessun amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. Queste parole, voi sapete che sono tra le parole su cui viene predicato di più, no? Insieme alle comunità. Però all'interno di questo capitolo ci sono queste parole che molti preferiscono non vedere, o meglio, fanno finta di non vedere, perché le vedono, solo che siccome che disturbano coloro che rigettano il proponimento delle lezioni di Dio, preferiscono proprio non predicarci mai sopra. D'altronde, rigettano il proponimento delle lezioni di Dio, come potrebbero predicare appunto su delle parole che proprio distrugge proprio tutta la loro stoltezza? Dunque, Gesù ha detto ai suoi discepoli che è stato lui a sceglierli. Ora, più avanti il Signore conferma che è stato lui a sceglierli e quindi a sceglierci. Ascoltate che cosa dice Gesù: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Ma perché non siete del mondo? Ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Allora, perché, fratelli nel Signore, noi non siamo del mondo? Allora, in questo momento, ora, noi non siamo del mondo. Ma un giorno eravamo del mondo. Un giorno eravamo del mondo. Ma che cos'è avvenuto? Che cos'è avvenuto? È avvenuto che il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Quindi ci ha strappati al presente secolo malvagio. Infatti l'Apostolo Paolo che cosa dice all'inizio della sua epistola ai Galati? Dice quanto segue. Paolo Apostolo, non dagli uomini né per mezzo d'alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono meco, alle chiese della Galazia, grazia a voi e pace da Dio Padre, dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, affin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, vedete, noi facevamo parte di questo presente secolo malvagio, ma il Signore ci ha strappati. Ci ha strappati. Ma noi siamo stati strappati in virtù, appunto, di una scelta che non abbiamo fatto noi, ma l'ha fatta il Signore, perché Lui ci ha scelti. Ci ha scelti di mezzo al mondo. Questa scelta del Signore è di fondamentale importanza per capire la grazia. Perché se noi oggi siamo sotto la grazia, è perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Se noi oggi siamo nel regno del figliolo di Dio, se noi oggi siamo nella meravigliosa luce del Signore, se noi oggi siamo il popolo di Dio, se noi oggi siamo figlioli di Dio, se noi oggi siamo giustificati, se noi oggi siamo salvati, se noi oggi abbiamo la vita eterna, è perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo. Ci ha scelti. Avete presente una grande moltitudine di uomini e donne che brancolano nelle tenebre più fitte, che non sanno dove stanno andando, ciechi. Ebbene, il Signore cosa ha fatto? Ci ha scelti di mezzo a questa moltitudine, ci ha scelto, ci ha strappati da questo presente secolo malvagio e ci ha appunto portati nella sua meravigliosa luce. Egli ci ha chiamato dalle tenebre, infatti, alla sua meravigliosa luce. Allora, rendiamoci conto di quello che ha fatto il Signore. Vedete, quando il Signore mi ha salvato per la sua grazia, io, come tanti altri, pensavo di essere stato io a scegliere il Signore, lo confesso, non lo nego, lo confesso, faccio questa confessione, ormai sono tanti anni che faccio questa confessione, che vi confesso questo, perché è la verità, perché praticamente io come tanti altri, credevo che io avevo aperto il cuore al Signore, credevo che avevo voluto essere salvato, credevo che il destino, insomma, me l'ero creato io, credevo quello, praticamente, che credono ancora oggi molti nella loro ignoranza. E allora naturalmente anche il mio, diciamo, modo di evangelizzare, diciamo, era influenzato, condizionato da questa, diciamo, falsa credenza. Ma è arrivato il giorno, e io ringrazierò sempre il Signore, che mentre ero in una nella mia cameretta, a studiare le scritture, stavo studiando l'Epistola ai Romani. Precisamente stavo studiando, ero arrivato verso la fine del capitolo 8, fine del capitolo 8, sapete, dove appunto viene detto tra le altre cose, perché quelli che gli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Ebbene, stavo, diciamo, studiando queste parole, poi sono passato, perché studiavo in maniera metodica le epistole dell'Apostolo Paolo, e poi stavo, diciamo, studiando diciamo il capitolo 9, il capitolo 10 e il capitolo 11 dei Romani. Ebbene, fu appunto mentre stavo studiando queste parti dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, che veramente io mi imbattei nel proponimento dell'elezione di Dio, nella predestinazione. Allora qualcuno dirà: ma quale fu la tua reazione? La mia reazione quale fu? Una reazione, diciamo, fu una reazione molto gioiosa, molto gioiosa. Il mio cuore traboccò di gioia, sentii una pace profonda. Perché? Perché effettivamente compresi, esaminando diciamo la mia conversione e la vita antecedente alla mia conversione, che era stato il Signore a scegliermi. Compresi di essere stato veramente predestinato. L'ho compresi immediatamente, non ebbi alcun problema ad accettare il proponimento dell'elezione di Dio. E ricordo ancora che veramente dalla gioia mi scoppiava il cuore dalla gioia. Non avevo mai sentito parlare della predestinazione nella comunità che avevo frequentata ancora da prima, perché il Signore mi salvasse, perché la rigettavano, dopo l'ho scoperto, non avevo mai sentito parlare di questa dottrina. E allora, sapete, quando io la scoprì, era nella Bibbia, ed è nella Bibbia, sentii una gioia che mi portò veramente a lodare, glorificare Dio, e veramente ad essere riconoscente a Lui, solo a Lui, per la salvezza che mi aveva largito. Riconobbi veramente che era stato il Signore che mi aveva scelto. Non era stata dunque una mia scelta, come erroneamente mi avevano insegnato e come io stoltamente avevo, diciamo, accettato, perché chiaramente ho avuto la mia colpa nell'accettare questa falsità. No, non era come mi era stato insegnato, era ed è come dice la Sacra Scrittura, come dice il nostro Signore Gesù: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Allora ho compreso la ragione per cui qualche settimana prima che il Signore mi salvasse, io, pure, diciamo, vedendo la morte a faccia, scampai alla morte, perché, come ho raccontato altre volte, io mi trovai in una sorgente d'acqua in Ticino, nella Svizzera italiana, con altri giovani, e stavo per perdere la vita, non ero salvato ancora, stavo per perdere la vita, annegato. In sostanza, stavo per annegare, ma il Signore mi preservò dalla morte, perché a Lui appartiene il preservare dalla morte. Il Signore, appunto, tramite un giovane che appunto si chiamava Fabio, è giusto ricordare il suo nome, che aveva da poco, peraltro, diciamo, fatto il, come si chiamava, il servizio, non mi ricordo come si chiamava in Svizzera, da buon samaritano, comunque qualcosa del genere, praticamente era un corso dove lui era stato addestrato ed aveva imparato a salvare, diciamo, quelli che stavano annegando. E io, diciamo, fui tirato fuori dall'acqua gelida, nella quale stavo, di questa sorgente nella quale stavo annegando, proprio da questo giovane. Fui Dio veramente a muoverlo, a mandarmelo, e mi tirò fuori con successo. E io ringrazierò sempre il Signore per quello appunto che ha fatto. Cioè, mi ha preservato dalla morte. Allora, vi stavo dicendo, quando appunto scoprì il proponimento dell'elezione di Dio, dissi: adesso ho compreso perché io non sono morto quel giorno, perché il Signore m'aveva eletto a salvezza prima della fondazione del mondo, ossia mi aveva predestinato ad essere adottato come suo figliolo, e quindi non potevo morire nei miei peccati, dovevo essere salvato. E allora, sapete, mi sono commosso profondamente nel ricordare, e tuttora mi commuovo quando ricordo quell'esperienza, quel pericolo di morte che scampai, perché devo riconoscere questo, che se non sono andato all'inferno, perché stavo andando all'inferno, è perché il Signore mi ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. E tu che mi ascolti, forse sei tra coloro che è scampata un pericolo di morte prima che il Signore ti salvasse. E allora ricorda bene i particolari di come il Signore ti ha preservato dalla morte, perché ricordando tutti quei particolari di quell'evento apprezzerai la liberazione che il Dio ha compiuto per appunto impedire che tu andassi all'inferno. E dovrai riconoscere che se oggi sei in Cristo, se oggi sei sotto la grazia, se oggi sei sulla via della salvezza, lo devi alla scelta del Signore, perché il Signore ti ha eletto in Cristo prima della fondazione del mondo, e quindi tu dovevi essere salvato o salvata, dovevi, e quindi quel pericolo di morte tu lo scampasti. Perché? Perché Dio aveva deciso che tu dovevi credere nell'Evangelo della gloria del beato Dio per essere salvato o salvata. Tu dovevi essere strappato al presente secolo malvagio, e quindi non potevi morire, non potevi andare in perdizione. Certo, tu non lo sapevi, come io non lo sapevo, che il Signore mi aveva eletto in Cristo prima della fondazione del mondo. L'ho scoperto dopo, che il Signore mi ha salvato. Però, vedi, rifletti, finora hai detto: ah, io ho scelto il Signore. Non lo dirai più. Non lo dirai più, perché nel momento in cui ti ricorderai come il Signore ti ha preservato dalla morte, dovrai dire: ma no, io non ho scelto il Signore, è il Signore che ha scelto me. cosa mi hanno detto, ma cosa mi hanno fatto credere questi pastori ignoranti, insensati, eh? Eh sì, anche io quando poi ho scoperto il proponimento dell'elezione di Dio mi sono arrabbiato, però, perché da un lato mi sono rallegrato, ho gioito, ho lodato il Signore, però dall'altro mi sono arrabbiato perché ho detto, ma perché mi hanno nascosto il proponimento dell'elezione di Dio? Perché nella comunità dove frequento non insegnano il proponimento dell'elezione di Dio? Mi sono arrabbiato, perché il proponimento dell'elezione di Dio è strettamente collegato alla grazia. Come si fa a parlare della grazia e non parlare del proponimento dell'elezione di Dio? Allora vi stavo dicendo che il proponimento dell'elezione di Dio fa comprendere la grazia, l'immeritato favore di Dio. Vedete, quando Dio disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò far grazia, vedete, il Signore con queste parole rese chiaro che Lui fa misericordia a chi vuole Lui, non a chi vuole essere graziato, non a chi vuole ottenere misericordia, no, no, a chi Lui vuole fare grazia. Dipende quindi dalla scelta del Signore. Il ricevere la grazia di Dio dipende dalla scelta del Signore. E dunque, quando io ho scoperto il proponimento dell'elezione di Dio, ho capito che cosa significa essere stato salvato per grazia. Perché fino a quando tu non accetti il proponimento dell'elezione di Dio, non puoi capire la grazia. Non puoi, te lo posso assicurare. Tu puoi leggere queste parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Efeso, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi il dono di Dio. Lo puoi leggere migliaia di volte, ma se tu leggi queste parole con gli occhiali del libero arbitrio, uso questa espressione così almeno, diciamo, mi capite meglio, cioè gli occhiali di quelli appunto che insegnano che il destino l'uomo se lo crea da sé, tu non puoi capire che cosa significa che sei stato salvato per grazia, non lo puoi capire. Lo capirai solamente quando il Signore aprirà la tua mente per intendere il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E chi è colui che chiama? È il Signore. Lui ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce e dalla sua volontà, è dipesa la nostra salvezza. Perché Egli ha voluto farci grazia. Noi non siamo fortunati, come dicono gli insensati. Sapete che ci sono pastori che dicono che noi siamo salvati perché siamo fortunati. Credono nella Dea Fortuna. Sembra incredibile, però le cose stanno così. Ci sono pastori che dicono, fratelli, noi siamo salvati perché siamo fortunati. Insomma, uno rabbrividisce a sentire parlare in questi termini. No, noi non siamo salvati perché siamo fortunati, noi siamo salvati perché il Signore ha voluto farci grazia. Quindi noi siamo graziati, graziati, graziati in virtù della volontà di Dio, pensate un po' voi, non della nostra volontà, no, no, in virtù della volontà di Dio, perché Dio ha detto, io farò grazia a chi vorrò fare grazia, e l'Apostolo Paolo, diciamo, ne parla, appunto, della volontà di Dio di fare grazia, o comunque della volontà di Dio dalla quale dipende la nostra salvezza. Infatti cita l'esempio, prima cita l'esempio di, allora, di Abramo, no? Che ebbe, voi sapete, no? Che ebbe due figlioli, ebbe Ismaele e Isacco. Però Ismaele nacque dalla schiava, da Agar, mentre Isacco nacque dalla donna libera, cioè da Sara. E il Signore naturalmente scelse Isacco, scelse Isacco, il figliolo della promessa, perché era stato promesso appunto ad Abramo e Sara, figliolo della promessa, Isacco. E prima cita appunto questo esempio per fare comprendere che appunto il Signore scelse Isacco, perché disse: in Isacco ti sarà nominata una progenie, non in Ismaele, no, in Isacco. Eppure anche Ismaele era figlio di Abramo, anche Ismaele era stato generato da Abramo, però il Signore scelse Isacco, fu con lui che il Signore stabilì il suo patto, e fu a lui che il Signore promise poi di dare la terra di Canaan, come poi confermò la stessa cosa anche a Giacobbe. Dunque, in Isacco ti sarà nominata una progenie. Ebbene, dopo aver citato questo esempio, cita l'esempio appunto di Esaù e Giacobbe. Esaù e Giacobbe, due fratelli che furono concepiti e partoriti appunto da Rebecca. Infatti, cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 9 dei Romani? Dice: non solo, ma anche a Rebecca avvenne la medesima cosa, quando ebbe concepito da uno stesso uomo, vale dire Isacco, nostro padre, due gemelli, poiché prima che fossero nati e che avessero fatto alcunché di bene o di male, affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore, secondo che è scritto: ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Vedete dunque, prima che questi bambini nascessero, quindi prima che avessero, vedete cosa c'è scritto qua, che avessero fatto alcunché di bene o di male, il Signore scelse Giacobbe e rigettò Esaù. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esaù. Sì, proprio così è scritto, così noi crediamo fermamente. Allora, il Signore disse a Rebecca: il maggiore servirà al minore. Tutto questo affinché rimanesse fermo il proponimento dell'elezione di Dio. Infatti, il proponimento dell'elezione di Dio è fermo. Anche se c'è qualcuno che ogni tanto lo vuole buttare giù, però, diciamo, i suoi tentativi sono proprio del tutto vani, perché il proponimento dell'elezione di Dio rimane fermo a distanza di migliaia di anni, rimane fermo. Tanti gli hanno dichiarato guerra, tanti hanno scritto volumi, hanno fatto prediche, continuano a farle, continuano a scrivere contro il proponimento dell'elezione di Dio, ma il Signore continua a fare grazia a chi lui vuole fare grazia. Praticamente non c'è nulla che può distruggere nessuno, che può distruggere la verità, perché la verità è di Dio. Allora qualcuno, naturalmente, leggendo quello che disse il Signore a Rebecca prima che i due bambini suoi fossero nati e avessero fatto alcunché di bene o di male, potrebbe essere indotto a dire: ma allora Dio è ingiusto. No, badate bene, non c'è ingiustizia in Dio. Infatti dice Paolo, che diremo dunque? V'è forse ingiustizia in Dio? Così non sia, perché gli dice Mosè: io avrò mercè di chi avrò mercè, avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, poiché la scrittura dice a Faraone: appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura chi vuole. Dunque, vedete, non c'è alcuna ingiustizia in Dio, perché Dio l'ha detto a Mosè: farò grazia a chi vorrò far grazia, la proprietà di chi vorrò aver pietà. Allora l'apostolo Paolo spiega queste parole, le spiega naturalmente in questa maniera: non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. C'è chi vuole e c'è chi corre, ma non dipende né da chi vuole e né da chi corre. Ma allora da chi dipende? Dipende da Dio. Dipende da Dio che fa misericordia a chi vuole. Comprendi? Egli fa misericordia a chi vuole. Allora tu, davanti a Dio, poniti in questa maniera. Dici: ma Signore, com'è possibile? Com'è possibile che tu abbia voluto farmi misericordia? Io che sono nulla, polvere e cenere, io che ero diretto all'inferno come tutti gli altri, ma com'è possibile che tu abbia avuto misericordia di me? Il Signore fa quello che vuole, fratello, sorella, il Signore fa quello che vuole e ti ha voluto fare grazia, ti ha voluto fare grazia come ha voluto fare grazia a me. È qualche cosa veramente, veramente di meraviglioso a cui noi dobbiamo sempre pensare per dare gloria a Dio. Il Signore ci ha fatto grazia avanti secoli, come dice Paolo a Timoteo, dice così, dice: il quale ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Allora, capite? C'è stata fatta grazia in Cristo Gesù avanti i secoli. Ora, com'è possibile questo? È possibile perché chi ha fatto questo è Dio, il creatore di tutte le cose. Ora, com'è possibile appunto che il Signore ci abbia eletti in Cristo prima della fondazione del mondo? Individualmente, infatti i nostri nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ora, ma com'è possibile? Noi non esistevamo, cioè non esistevano i nostri genitori, non esistevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, insomma. Non esistevano gli uomini sulla faccia terra, non esisteva nemmeno il mondo. Fratelli, non esisteva nemmeno il mondo, perché prima della fondazione del mondo noi siamo stati eletti in Cristo da Dio. E allora davanti a queste cose capite che sono cose troppo, troppo alte, troppo grandi per noi, non ci possiamo arrivare. Chi ha conosciuto la mente del Signore? Chi? Allora non ci rimane altro che piegare le nostre ginocchia davanti veramente al nostro Padre Celeste e dirgli: grazie Padre, ti vogliamo rendere grazie in Cristo Gesù perché a te è piaciuto così. Perché poi la risposta è questa: perché al Signore così è piaciuto. Vi ricordate infatti Gesù che cosa disse un giorno al Padre? Disse queste parole che sono scritte in Matteo capitolo 11, versetto 25 e 26. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ecco. La risposta appunto è questa, cioè come mai il Signore ha scelto noi? Come mai il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo? Noi che non meritevamo la sua grazia, non meritevamo di essere salvati, non meritevamo la remissione dei peccati, la giustizia di Dio, la vita eterna. Non meritevamo nulla, perché noi eravamo dei peccatori, traviati, ribelli, insensati, servi di varie concupiscenze. odiosi, odiandoci gli uni gli altri. Noi eravamo degli empi. Cosa meritavamo noi? Meritavamo di andare in perdizione, questo sì lo meritavamo, e lo dobbiamo dire. Ma il Signore ci ha salvati, ci ha scelti di mezzo al mondo. Come mai? Perché? Perché così gli è piaciuto. Allora, sapete, davanti a tutto ciò, uno non può che esaltare. Che cosa? La grazia di Dio. La grazia di Dio. A molti dà fastidio che io esalti la grazia di Dio. E che devo fare? Che mi devo mettere a esaltare me stesso? Che devo fare? Devo cominciare a esaltare la mia volontà? Che cosa devo esaltare? Le mie opere? Devo cominciare a esaltare le opere buone che ho compiuto dopo che ho creduto? Devo cominciare a esaltare le preghiere, le elemosine, i digiuni che ho compiuto dopo che il Signore mi ha salvato? Ma lungi da me! Ma lungi da me! Ma io esalterò sempre, fino a che avrò un alito di vita, la grazia di Dio che Dio ha voluto farmi e per la quale io sono quello che sono, non solo, per la quale io posso fare quello che sto facendo. Sì, sì, è per la sua grazia. E quindi, vedete, fratelli, anche per il ministero è la stessa cosa. Io quando il Signore mi ha salvato, ma io ero un ragazzo di circa 19 anni, ma io non immaginavo neppure che un giorno avrei predicato l'Evangelo, che avrei insegnato la dottrina di Dio, come aveva fatto l'Apostolo Paolo. Io non l'avrei immaginato, non lo immaginavo. Il Signore mi aveva salvato, ero contento, volevo diciamo servirlo fino alla fine, amarlo, onorarlo, camminare in maniera degna di lui fino alla fine, ma io non immaginavo che un giorno avrei predicato l'Evangelo e la dottrina di Dio, per la sua grazia, sempre per la sua grazia, non per miei meriti, eventuali meriti, no, assolutamente, per la sua grazia. Però che cosa avvenne? Avvenne che il Signore praticamente fece sì che io venissi a sapere che molti anni prima il Signore mi aveva appartato, quando io ero un ragazzino, mediante una visione celeste data a una sorella anziana che era stata missionaria in Africa, proprio lì, durante il culto, diciamo a Lugano, nel locale di culto della Chiesa Evangelica in via Dufour, che era un locale di culto, diciamo, di cui erano proprietari, di cui credo ancora siano proprietari dei Battisti. Però veniva data, diciamo, in questo locale di culto, veniva dato a una chiesa pentecostale, diciamo, comunque di estrazione pentecostale, di radunarsi la domenica, non solo, anche il, se non ricordo male, il mercoledì, il venerdì, anche il sabato c'era la riunione dei giovani. Ebbene, durante uno di questi culti, una sorella anziana di nome Margherita ebbe una visione celeste. In questa visione celeste vide una colomba bianca scendere, appunto, e posarsi su un bambino. Un piccolo bambino, un ragazzino, quel ragazzino ero io. E questa sorella fece annunziare subito, dopo che ebbe questa visione, fece annunziare dal pulpito che aveva avuto questa visione su di me. E con questa visione il Signore dichiarava che mi aveva appartato per la predicazione della parola, della sua parola. E alla fine di quella riunione di culto, questa sorella cercò mia mamma e cercò anche me. Ero piccoletto, vispo, correvo a destra, a sinistra. Sapete, no, i bambini dopo il culto cosa fanno, no? Corrono di qua, corrono di là con gli amichetti, le amichette, si divertono, insomma, i bambini sono così. Ebbene, questa sorella, mi fu raccontato da mia mamma, poi mi cercava e mi trovò. Dove mi trovò? Mi trovò praticamente attaccata alla gonna di mia mamma. Sapete, no? Quando i bambini si attaccano alla mamma quando sono piccoletti, no? Stringono la mamma, no? Proprio, diciamo, all'altezza della gonna, magari, perché sono, diciamo, timidi e così via. Ebbene, questa sorella mi trovò, stretta a mia mamma, mise una sua mano sopra il mio capo, e disse queste testuali parole a mia mamma Angela: sorella, vedrai che il Signore si userà di questo tuo figlio. E mia mamma ha sempre conservato quelle parole, conservò sempre nel suo cuore quelle parole. E mia mamma soffriva nel vedere che quelle parole non si adempivano mai. Perché gli anni passavano e io camminavo ancora sulla via della perdizione. Però poi, naturalmente, arrivò il giorno quando il Signore mi salvò. E allora che cosa avvenne? Com'è che venni a sapere tutto ciò? Lo venni a sapere da mia mamma, forse? No, anche dopo che il Signore mi salvò, mia mamma non me lo disse questo. Non ho mai capito perché, però, non me lo disse. E allora chi me lo disse? Me lo disse il vicepastore. Il vicepastore, diciamo, di questa comunità, la prima volta che io mi recai, dopo essere stato salvato, alla riunione di culto, perché io, naturalmente, dopo che il Signore mi salvò, dissi, adesso voglio andare al culto anche durante la settimana, perché il Signore mi ha salvato. Ebbene, mi fece sapere, appunto, di questa, diciamo, chiamata. E io quella sera rimasi sconvolto. Tornai a casa, era tardi, mi ricordo. Tornai a casa, perché c'erano circa una decina di chilometri dal locale di culto a casa. Tornai a casa e andai proprio a bussare alla porta della camera da letto dove c'erano mio papà e mia mamma. E dissi: papà, mamma, posso entrare? E mi dissero: sì, entra. E io entrai perché quella sera ero rimasto sconvolto dalle parole di quel vicepastore, che si chiama anche, insomma, si chiama ancora in vita, Henri. E gli dissi: ma mamma, ma è vero che tanti anni fa il Signore mi ha chiamato a predicare la sua parola tramite, appunto, una visione, una rivelazione che diede alla sorella Margherita? E mia mamma mi disse: sì, è vero. E mi raccontò, appunto, diciamo, quello che vi ho raccontato di quando la sorella Margherita si avvicinò a me dopo il culto e mise la mano sul mio capo e disse a mia mamma: sorella, vedrai che il Signore si userà di questo bambino. E fu così che il Signore mi appartò per la predicazione del suo glorioso Evangelo, per la sua grazia, quindi. Non ero ancora salvato, eppure il Signore mi appartò per l'Evangelo. E quindi se io oggi predico l'Evangelo, insegno la dottrina di Dio, lo faccio sempre ed esclusivamente per la grazia di Dio. Non perché dopo che il Signore mi ha salvato ho pregato, digiunato, fatto elemosine. No. Assolutamente. Signore mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, ad insegnare la dottrina sua per la sua grazia. Mi ha chiamato a fare ciò mediante la sua grazia. È escluso qualsiasi mio merito post conversione. Naturalmente anche qualsiasi eventuale merito prima della conversione. Ma sia ben chiaro questo, perché io attribuisco, perché è la verità, tutto ciò alla grazia dell'Onnipotente Dio, dell'Altissimo, eh? E quindi, vedete, è tutto poi riconducibile alla grazia di Dio. E anche qui, vedete, si parla di una scelta. Chi ha fatto questa scelta? L'ha fatta il Signore. Chi ha scelto che io predicassi l'Evangelo e la dottrina di Dio? L'ho scelto io? No, non ho scelto io. Ha scelto il Signore. Lui mi ha scelto. Come fece con Saulo da Tarso. Il Signore, appunto, lo aveva appartato per l'Evangelo fin dal seno di sua madre. E poi, quando venne la pienezza dei tempi, il tempo stabilito da Dio, il Signore lo salvò. Il Signore lo salvò e lo costituì apostolo e dottore dei gentili. Dunque, vedete, ogni vanto è escluso, eh? Sia per quanto riguarda la salvezza, sia per quanto riguarda il ministero. Quanto errano grandemente coloro che pensano, di guadagnarsi la vita eterna. Oh, quanto sono ciechi, quanto errano coloro poi che pensano di appropriarsi di un ministero, di guadagnarsi un ministero con le proprie buone opere, con le preghiere, i digiuni, le elemosine. Ma quanto errano costoro! Non conoscono la grazia di Dio, costoro non sono sotto la grazia di Dio, ma sotto il peccato, non sono persone ravvedute, in quanto pensano, ragionano come i pagani che non conoscono il Dio. Sì, sì, proprio così. Sapete quanti pagani che non conoscono il Dio ci sono in mezzo alle chiese evangeliche? Ce ne sono tanti, travestiti da evangelici, sì. Quando li sentite parlare, sono uno spavento, fanno spavento. Perché parlano esattamente come quelli del mondo, come quelli appunto del mondo. Perché? Perché non conoscono la grazia di Dio. E invece noi, fratelli nel Signore, noi la grazia di Dio la conosciamo. Noi siamo infatti sotto la grazia. Siamo circondati dalla grazia di Dio. Circondati. I giusti sono circondati dalla grazia di Dio e quindi non possiamo fare altro che dare gloria all'Iddio d'ogni grazia, a colui che ha voluto farci grazia, a colui che veramente ci ha strappati al presente secolo malvagio, per trasportarci nel regno del suo amato figliuolo, dove c'è una meravigliosa luce. Sì, noi diamo gloria a Dio, all'Iddio d'ogni grazia. Lui ci ha eletti prima, in Cristo, prima della fondazione del mondo. Infatti, noi siamo andati a Cristo perché Lui ci ha attirati. Ognuno può venire a me, disse Gesù, se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. Noi siamo stati attirati a Gesù. Vi ricordate quando eravate sotto il peccato? Che cosa avvenne? Vi siete sentiti attirati a Cristo. Vi siete sentiti di andare a Cristo. E perché? Perché il Padre vi attirava a Cristo. Quindi siete andati a Cristo perché il Padre vi ha attirati a Cristo. Siete andati a Cristo perché il Padre vi ha dati a Cristo. Quindi dov'è il vanto? È escluso in virtù del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.